Savonarola, il frate che scompaginò Firenze, prose scelte, un programma in collaborazione con Davide & Giorgio e Radio Big World. Savonarola, prose scritte molto tempo fa da Pasquale Villari in una serie di libri e lette oggi da uno che una serie di quei libri se la meriterebbe tirata sulla testa. Chi asino è, ma cervo si crede, al saltare il fosso se ne avvede. Serio. Capitolo 5. Lorem Ipsum. Lorenzo aveva ereditato da Cosimo tutta quella sottile astuzia per la quale, senza essere un grande uomo di Stato, era prontissimo nei sottili ritrovati, pieno di prudenza e d'acume, abile nel trattare con gli ambasciatori, abilissimo nello spegnere i suoi nemici, ardito e crudele quando gli pareva che l'opportunità lo permettesse. Non aveva rispetto né a fede né ad onestà né a condizione alcuna di cittadini, andava direttamente al suo fine senza riguardi umani né divini. Il crudele sacco della infelicissima città di Volterra, i danari presi dal monte delle fanciulle per cui moltissime, rimaste senza dote, si diedero alla pessima vita, la disonesta avidità con cui pose le mani negli averi del comune sono macchie che neppure i suoi più caldi adulatori poterono cancellare. Il suo volto dipingeva veramente tutto il suo carattere. Aveva qualche cosa di sinistro e spiacevole, un colore olivastro, una bocca assai grande, il naso schiacciato e la voce nasale. Ma il suo occhio era vivo e penetrante, la fronte alta, le sue maniere avevano quanto di più gentile può immaginarsi in un secolo culto ed elegante come quello. Il suo conversare era pieno di vivacità, di ingegno e di dottrina. Coloro che erano ammessi alla sua familiarità restavano sempre di lui innamorati. Egli secondò il secolo in tutte le sue tendenze. Di corrotto che era lo fece corrottissimo, spingendolo a ciò per tutte le vie. Abbandonossi ai piaceri e vi fece perdurare abbandonare il suo popolo per ubriacarvelo e addormentarvelo. Infatti Firenze era al suo tempo divenuta un'orgia di piaceri e di feste. Lorenzo però aveva per la poesia e le arti un gusto assai squisito. Abbandonato e mandato a male tutto il commercio della sua casa, dette le ore d'ozio alle lettere, nelle quali era stato educato dagli uomini più dotti del suo tempo. Il Landino era gli stato maestro nella poesia, l'Argiropulo nella filosofia aristotelica ed il Ficino nella platonica. Fin dai primi anni aveva mostrato un'intelligenza degna del culto delle muse, una grande facilità di comprendere, una precisione nell'esprimersi ed una fantasia assai vivace. Messosi poi a proteggere i dotti e gli artisti, la sua casa era divenuta il ricovero degli ingegni più chiari del suo tempo. Ogni uomo di riputazione nelle lettere che si trovasse in Firenze faceva capo a lui. Molti venivano da altre parti d'Italia per vivere in quel cerchio fiorito di dotti. E sia nelle radunanze tenute in sua casa, sia nella famosa Accademia Platonica, il suo ingegno brillava in quella eletta schiera, da cui la sua cultura letteraria riceveva un piccolo profitto. Così Lorenzo andò lodato fra gli scrittori del suo tempo e le sue opere allora portate a cielo neppure oggi restano senza fama. Le sue poesie volgari e specialmente la favola dell'Ambra hanno una certa naturalezza e disinvoltura, una spontanea eleganza, un'osservazione ed un sentimento della natura che a quei tempi non erano comuni. Spesso vi è troppo chiara l'imitazione delle ottave del Poliziano, ma anche allora non si possono negare a Lorenzo le rare doti del suo ingegno. Egli era proprio l'uomo di quel secolo, nella intelligenza venivano ristrette tutte le qualità del suo spirito, le sue maniere medesime erano in lui conseguenza di cultura intellettuale e non di gentilezza d'animo. La protezione ai dotti era consiglio di governo o desiderio di passar lietamente il tempo. Singolare vita fu veramente quella di Lorenzo. Dopo essersi adoperato con tutta la forza della sua volontà e della sua mente a distruggere con qualche nuova legge qualche ultimo avanzo di libertà, dopo aver fatto decidere qualche nuova confisca o condanna di morte, egli entrava nell'Accademia Platonica e disputava con calore sulla virtù e sull'immortalità dell'anima. Di là usciva e, mescolandosi con la gioventù di perduti costumi, cantava i suoi canti carnascialeschi e abbandonavasi al vino e alle donne. Ritornava a casa e alla sua tavola, insieme col Pulce e col Poliziano, recitavano versi, discorrevano di poesia, ed in tutte queste occupazioni egli vi si recava tanto intero che ciascuna di esse pareva essere l'unica della sua vita. Ma più singolare di tutto si è che in tanta varietà di vita non si trovi a citare un atto solo che sia veramente di virtù generosa verso il suo popolo, o i suoi familiari o i suoi parenti. E sì, che ove mai vi fosse stato, non lo avrebbero i suoi infaticabili lodatori dimenticato. Segno in lui d'animo tristo, ma di tempi ancora tristissimi, perché semmai la virtù e la giustizia fossero state in quel secolo tenute nel grado che si dovea, egli non era uomo da non istudiarsi con qualche apparenza teatrale da averne almeno il nome. Intorno a Lorenzo de' Medici si vedevano sempre due uomini, i quali godevano allora una grandissima fama in tutta l'Europa e tramandarono di poi i loro nomi alla posterità. L'uno di essi era Angelo Poliziano, il dotto di più vasta erudizione letteraria in quel secolo eruditissimo ed il solo che avesse nell'anima una vena ingenua di poesia. A 13 anni aveva scritto bellissimi epigrammi latini, a 17 ne aveva scritto degli altri in greco e si vuole che di poco avanzasse 18 anni quando compose quelle stupende ottave sulla giosta di Lorenzo e Giuliano che lo resero il primo poeta del secolo e fecero il suo nome immortale. Per esse egli acquistò il favore di Lorenzo, ne divenne segretario privato, bibliotecario, educatore dei suoi figli e visse sempre nella sua medesima casa. Ma in questa nuova e più agiata condizione parve che si estinguesse in lui la sacra fiamma della poesia. L'erudizione soltanto andò sempre crescendo e divenne col tempo straordinaria. Lorenzo ricevette non poco vantaggio dai servigi e dal conversare d'un uomo di sì vasta dottrina, ma la fama del poliziano ne soffrì grandemente e forse a questa sua troppo intima familiarità col Magnifico si deve attribuire l'insistenza con la quale i posteri hanno voluto accusarlo di vizi così osceni che la storia sdegna di rammentare. L'altro amico intimo di Lorenzo fu Messer Luigi Pulci, giovane di nobile famiglia, fratello di due poeti, dei quali fece quasi dimenticare il nome col suo famoso Morgante Maggiore, poema pieno di brio, di vivaci e strane fantasie, nel quale alla invocazione della Vergine succede quella di Venere ed a questa la satira dell'immortalità dell'anima. E quale era il poema, tale fu l'uomo, spirito bizzarro e allegro, semmai ve ne fu, scettico, pieno di ironia, amante dei piaceri e dell'ebbrezza dei sensi, anima e corpo con Lorenzo, che accompagnava sempre alle veglie, ai sollazzi leciti o illeciti. A distanza della cui madre, Clarice Orsini, scrisse il poema che lesse alla loro tavola accompagnando la poesia col vino. Oltre di questi amici, Lorenzo passava assai spesso le sue ore in mezzo agli artisti, pigliava parte ai loro piaceri, amava singolarmente le loro strane avventure ed il loro carattere. Non poté già verso di loro usare una protezione uguale a quella di Cosimo, il quale aveva speso tesori a fondare chiese e palazzi, ma pure li accoglieva sempre con lieto viso, li soccorreva ed aiutava in tutti quei modi che un principe come lui poteva. E se egli non avesse fatto per le arti altro che fondare il giardino di San Marco, sarebbe già degno di grandissima lode. Ivi raccolse tutte le statue o frammenti antichi che gli riuscì ad avere, tutti i disegni dei più valenti artisti, e lo aperse ad ogni giovane di qualche speranza. Ivi segnò le prime linee Michelangelo Buonarroti, quando, ancora giovinetto, povero e da pochi conosciuto, trovò quella ospitalità che tanto onore fece a Lorenzo.